alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarre. 20ª puntata. Battendo a macchina il mio libro, sentivo tossire mia madre nella stanza accanto, passare per il corridoio, e mi sembrava che ci fosse nelle mie intenzioni di rappresentarla, lei così schiva e diffidente, un tradimento da parte mia, un ennesimo tradimento. Uscendo, nascondevo i fogli già pronti, e una volta che lei mi aveva chiesto se stessi scrivendo qualche cosa, le avevo risposto di no. Talvolta era come se la sua presenza soverchiasse fisicamente la mia possibilità di scrittura. Mi stavo rendendo conto che non volevo raccontarla a mia madre, trovare termini adatti, ricreare momenti significativi. Mi tratteneva una vera e propria spilorceria. Non riuscivo a concederle vicende proprie in cui non fosse stata mia madre, e cercavo di schiacciarla sotto un paragonare assillante che a malapena trattenevo dall'essere pettegolo. Non mi venivano in mente episodi lieti, quelle osservazioni comiche, anche su se stessa, in cui si ammorbidiva il suo sarcasmo. Non sapevo evocare la sua voce sonora in cui ronzava nel catarro la R. Non rammentavo se non il suo silenzio, o al contrario i suoi giudizi taglienti e le sue tempestose scenate. Esitavo dunque se registrare fatti, ridurre, controllare e perciò, perché no, esorcizzare, oppure addirittura rinunciare. Non ho capito, non ho accettato e non so rappresentarlo, se sprofondare ancora una volta sotto il ghiaccio del mare invernale di Riga. D'altra parte, ne facevo anche un monumento su cui fossero scolpite conclusioni a confortarmi e giustificarmi, ma che un restauratore geniale e impiccione abbia congiunto le gotiche mani di pietra del conte e della contessa di Arunde sul loro sepolcro può forse commuovere il pubblico che si consola con la pace della morte, ma resta pur sempre opera di restauro che non riguarda né vivi né morti. E cercare pace per mezzo del libro non è in verità di nuovo travisarlo. La vita sola può dare pace e guerra, e di ciò il libro deve riferire. Scrissi e riscrissi dunque, cercando il passaggio da me a quel che scrivevo, e da qui a coloro che l'avrebbero letto, e poi dal lettore di nuovo al libro, districando me dallo scritto e lo scritto da me. Avevamo intanto dovuto cambiare casa e vivevamo in un piccolo appartamento al primo piano di un antico stabile del centro di Torino, soffitto a volte, profonde finestre incavate, elegantissime rifiniture, d'inverno poca luce e d'estate un cortile spesso maleodorante. Scrivevo con accanto al letto la lampada accesa anche di giorno. Mi aggiravo tra le mie piante, trasportate dall'alto su una piazza luminosa e aperta al lungo balcone basso tra le case, e valutavo se spruzzarle d'acqua. Mi piaceva, innaffiando, far scendere l'acqua a pioggia nel cortile. Eravamo rimasti noi tre, mia madre, Gianni e io. Di quegli anni posso ricostruire, negli ultimi tempi di mia madre, momenti e brevi periodi tutto sommato sereni. Lei e io stavamo meglio di salute. Gianni era, come sempre, discreto e paziente. I figli pronti e caritatevoli. A poco, via via che l'età la indeboliva, mia madre incominciava a fidarsi di me. Una volta lodò un mio libro e si rammaricò che non avesse avuto il meritato successo. A mia sorella, recatasi a trovarla qualche settimana prima della morte, chiese: «Dov'è mia figlia?» «Ma sono qui», disse Sisi. «Non tu, l'altra», replicò lei. malata, a letto e accudita da me, mi disse improvvisamente una sera: «Certo, il Signore non ti ha risparmiato nulla». Fu l'unica volta in cui la sentì nominare Dio. Poi aggiunse, esitando e cercando le parole: «Prima tuo padre, poi 4 figli da allevare e poi me». Si interruppe e dopo 2 minuti di silenzio concluse, quasi parlando di qualche cosa di passato di cui non si fosse accorta prima: «Tu eri la Valdese, Esisi l'ebrea». E con queste parole, con le quali intendeva di certo rendermi giustizia e forse ringraziarmi, ci separò ancora una volta dentro il suo cuore. Non posso aggiungere molto, ma questo sì. Vi fu certamente una frattura in lei, di nuovo uno strappo, un estraniamento tra la regola morale che si sentiva obbligata a trasmettere e la sua indole. Sciolta da tale consegna, per quello stesso obbligo, lei, ormai europea, che aveva sposato un ebreo, non mi aveva forse portata da riga sin nella chiesa valdese di Torre Pellice perché vi fossi battezzata? Non più legata, dicevo, da questa promessa fatta prima di lei da altri a cui non volontariamente essa apparteneva, mia madre infatti amò felicemente i miei figli, ma tra lei e me la regola che senza intenzioni, da lontano e segretamente, essa aveva dovuto consegnarmi, perché a me poi in particolare abbia voluto imporla e tramandarla, lo ignoro. Potrei provare a dire, entrando solo un attimo nel merito di quei misteri dell'amore che scoprì impenetrabili mentre leggevo quella sua descrizione di mia sorella in parrucchino bianco, perché non riusciva ad amarmi. Non ero forse la prova d'un suo mancamento alla regola e insieme la causa, incolpevole ma non recusabile, del suo infelice matrimonio? Oppure piuttosto, difficilmente ami chi, bene o male, riproduce un modello che a te stesso è pesato e che compulsivamente trasmetti, chi allevi a esserti rivale? In me lei respingeva sia quel che dalla regola esorbitava o la contraddiceva, sia la norma temuta, che vedeva a poco, anche se a prima vista deviante e nuova, consolidarsi e definirsi nelle mie azioni. Le donne della mia vita mi furono donne di rado e a malincuore. E quanto mia madre, che mi ha partorito e allattato, la nonna, compiangendomi per una futura inevitabile ingiustizia condivisa mentre mi porgeva il pannolino delle prime mestruazioni, ma gli uomini, i padri, mi furono padre e madre, esempio e confronto, e ciò che si può dire, concludendo, è dunque il contrario di quel che affermai a Luisa la sera sul Po: io le donne non le conosco, conosco solo gli uomini. Non era forse il padre che mia madre vecchia temeva in me? Non erano forse i padri in lei a cui ero infedele? Contro gli uomini continuano a travolgermi rabbie furibonde. Non ho mai amato uomini più vecchi di me e mi seduce solo la voce del tenore e persino del controtenore, anche se cantando tra di me canto con voce di basso arie verdiane di grandi vecchi. Rabbie incontenibili, dicevo, quando mi alzo a parlare, a gridare per un atto ingiusto, una vanteria, un sopruso, una beffa a chi è più giovane oppure non si può difendere, ma grido e piango contro le donne che non mi furono donne piuttosto che contro gli uomini. Attraverso le donne i padri mi hanno raggiunta camminando per la pietraia e mi hanno consegnato i frammenti rocciosi della loro eredità, la barbettaggine bastarda e infedele, discesa nei secoli dagli antenati del nonno Giovanni Daniele, legato duro e avaro, ma inalienabile. Diversamente assenti dalla mia vita, padre e madre, fantasmi simbolici, l'hanno entrambi improntata d'un marchio non diretto e non voluto, non impresso neppure da loro. Mia madre non potendo accettarmi, mio padre con la sua tragica morte. Fantasmi simbolici che di soppiatto hanno frequentato i miei affetti, non per essere resuscitati tuttavia in reali, terrene sembianze, ma al contrario per dotarli delle stesse loro qualità domestiche, ma inafferrabili. Più forte della presenza dell'amato era infatti la stretta che voleva stringere l'amore. Solo come madre di figli, miei e non miei, sono sfuggita a questo inganno. D'altronde, dalla familiarità con il simbolo, dalla sua autonomia incorporata, è nata in me l'esigenza di trasformare, la spinta a rappresentare, a ricreare, la persuasione che tutto può essere riprodotto e raffigurato. Non su una tappezzeria con fili di seta ed oro. Il mio unicorno è pur sempre un cane randagio, addormentato nella calura di luglio, al riparo fresco di un'edicola chiusa. Erano trascorsi 2 anni dalla morte di mia madre. Mi ero decisa ad andare in pensione. Stavo facendo un'ennesima revisione della mia autobiografia a Bordighera durante un soggiorno con Andrea. Allorché morta mia madre, l'avevo riletta. Ero bensì stata tentata di cedere al passato. Protagonista, antagonista, storia, conclusione. Forse è più facile affidare all'avvenimento irrevocabile la procedura del così difficile distacco. Facevo sogni orrendi. Affrontavo una cosa che di mia madre vecchia aveva l'aspetto e tentavo a colpi di ascia di tagliarla a pezzi. Mentre invano cercavo di distruggerla, la cosa continuava tra fiotti di sangue a proclamarsi mia madre, che io invece, piangendo e urlando, invocavo: vieni a dirle che tu sei quella vera, che sei morta, che non sei lei. Del nostro ultimo incontro avrei potuto, in vero, trarre consolazioni, attribuirlo al volere del nostro comune imperscrutabile. Ma disputavo alla memoria e al caso questo diritto. Non mi decidevo a rinunciare al presente. E nel presente stava ancora il gravame, benché spento ormai, della mia ira. L'odio che, come Sigfrido accanto a Re Gunther, aveva combattuto accanto a noi, nascosto nella sua mantella fatata, ci aveva spinte l'una contro l'altra in una lotta ereditata, immagine contro immagine, non persona contro persona, in una gara di meriti sterili per conto di chi ci aveva precedute. L'ultima volta che le avevo parlato ero andata a trovarla nell'istituto in collina dove aveva trascorso l'estate. Era metà settembre e mi aveva chiamata un infermiere che non era tranquillo perché da alcuni giorni lei rifiutava di nutrirsi. Salì con mio figlio Paolo, che come medico aveva seguito la nonna in quegli anni. Qualche giorno prima essa mi aveva detto: non ho più voglia di leggere, e avevo avuto come un presentimento. Paolo la visitò e la rassicurò. Lei, coricata vestita sul letto, notai che non si era tolta la camicia da notte che le spuntava dalla scollatura del vestito. Lei lo ascoltò, quasi distratta. Disse, guardandosi il braccio: si vedono le mie vene. Portarono la minestrina e riuscì a fargliela mangiare imboccandola. Le dicevo intanto che doveva cercare di prendere almeno la minestra nei prossimi giorni, se voleva essere in forze per venire a fine settimana a casa, dove c'era la sua stanza con le sue cose. Di nuovo mi ascoltò distratta. La salutammo e ci avviammo verso la porta. Quando fummo sulla soglia, lei disse: sempre coricata, muovendo verso di noi appena la testa, illuminata dal grande cielo settembrino rosso nel tramonto dietro il finestrone che rovesciava luce sul letto. Lo so che mi portate nel cuore. In quel luglio di 2 anni dopo, a Bordighera, pioveva ininterrottamente. Andrea a casa preparava un esame e io ero contenta di potergli badare. Non si poteva andare alla spiaggia e passeggiavo con scarpe da pioggia per le strade incongruamente bordate di giardini fioriti sotto un grigio cielo di novembre. Un pomeriggio mi incamminai a rivedere un casone disabitato che mi incuriosiva e che ritornavo anno dopo anno a guardare. Sorgeva in alto sulla collina, parallelepipedo immenso e rosicchiato dal tempo sui balconi e sotto i fastigi del tetto, persiane sfondate alle innumerevoli finestre. Il grande giardino che lo separava dalla strada era ormai spesso d'una vegetazione caotica in cui mancava qualsiasi colore. In mezzo agli altri giardini curati, coltivati, ricchi di fiori d'ogni specie, di limoni, di gelsomini, di infiniti gerani, di dahlie, di convolvoli, il parco davanti al casone era completamente spento nel suo verde casuale e arruffato. Un albergo abbandonato, mi ero detta, se non che un nome su un cartello ovale al di sopra della grande cancellata smentiva questa mia rassicurazione. Era scritto con ornate, anche qui altissime, lettere brunite e aguzze e diceva Angst. Pure sul tetto si ripeteva in letteroni arrugginiti. La A maiuscola si era rovesciata indietro e minacciava di trascinare con sé le consonanti a lei non casualmente accostate. In tedesco suonavano infatti tutte insieme Angoscia. Questa volta osservai, poco prima, una strada in salita che non avevo mai visto. Infatti, avviandomi a guardare il casone, ero sempre in attesa di non trovarlo più, caduto in se stesso, disfatto nell'ancora rigida e gigantesca struttura geometrica che forse da sola avrebbe continuato a segnarne i confini nell'aria dopo la completa scomparsa. E scrutavo in alto finché non lo vedevo sorgere con le porte e le finestre chiuse e corrose, dietro il parco senza fiori. Andai dunque più su, sotto l'ombrello, sempre tra case fiorite. S'era alzato un vento molle di sud-est. Subito dopo la prima curva trovai un cancello aperto e scorsi vicinissima, di fianco dal lato minore, l'immensa costruzione al termine di un vialetto erboso. Proseguì tuttavia ancora qualche minuto la mia strada. C'era una lunga, splendida siepe di clematidi purpure sul muro di recinzione del giardino successivo e poco più là, alle spalle delle ville, una valletta completamente selvaggia, fiorita di ginestre. Riandavo, come facevo in quei giorni, al mio lavoro di rifacimento, ai miei tentativi di chiudere la forbice tra vita e libro. Avrebbe dovuto, mi dicevo, essere una conversazione casuale, non conclusiva, tra più interlocutori. Io, il libro, gli altri, quelli che vi comparivano, quelli che l'avrebbero letto. E mi venivano in mente particolari, episodi, parole che non avevo neppure citato, forse importanti quanto quelli riferiti. E nel futuro non c'era forse anche quella mia andata invernale a Torre Pellice che avevo trovata nel pomeriggio già rassegnata sotto il buio schermo del Vandalino, la strada dalla stazione alla biblioteca dove andavo a consultare testi vuota, solo un grande vento spazzava foglie secche nell'aria viola e grigia. Eppure mi era parso, infreddolita e sola, di rientrare in un grembo d'ombra, non accogliente, ma conosciuto. Mio. Quando ritornai indietro dalla valletta fiorita, mi fermai sulla soglia del cancello. Chiusi il paracqua, poiché sulla mia testa un grandissimo ficus stendeva i suoi rami densi di foglie. Mi accorsi che anche la villa a sinistra del cancello era in realtà, dietro una facciata apparentemente intatta, una casa con il tetto sfondato. Consideravo il casone, così vicino questa volta, e percorrevo con la mente l'innumerabilità delle sue stanze, chissà se vuote del loro passato, sotto l'enorme A rovesciata, tal quale un'arma caduta. Dietro di me toccavano il suolo con un tonfo secco le foglie del ficus staccate dal vento. Era l'unico rumore che sentivo. Potrei continuare a riscrivere per sempre, mi dissi, proseguendo ad aprire le porte sbarrate all'interno dell'immane Angst, senza mai finire. Il vento molle rimescolava odori di terra bagnata ai tonfi schioccanti delle foglie. Non è un rumore autunnale, pensai, è troppo netto e staccato. E voltando le spalle alla cancellata sbilenca, consegnai le mie pagine alla provvisorietà. Patrizia Zappamulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.